Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Credevo che la paura più grande fosse quella di perdere il portatile con la tesi o un paio di orecchini preziosi. E invece non era così. La paura più grande era quella di non trovare più un biglietto, una foto scattata in un momento importante o un braccialetto colorato comprato al mare. Ciao, sono Silvia, ho 26 anni e sono di Fermo. Da qualche mese mi sono affacciata al mondo del lavoro e sono, come tanti ragazzi al giorno d'oggi, una stagista. Avevo l'altra mia passione, il mio motorino rollerball. Sono abbastanza incazzato, non c'è più, me l'hanno fregato. Mi ricordo era una bella giornata, volevo festeggiare. Mi sveglio come tutti i pomeriggi, tranquillo. Mangio, esco, scendo le scale, arrivo sotto. Niente. Non c'è niente. Dopo di solito stava posteggiato il mio motorino. Vuoto. È perché oggi parliamo di ladri, ma giuro che io troverei qualsiasi scusa pur di risentire questi pezzi di Alec Drastico. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. La storia di Silvia oggi parla di quella cosa lì, parla di quando a un certo punto o scendi in strada e non trovi più il tuo motorino, la tua moto, la tua bicicletta, questo capita molto, molto di frequente, o l'automobile, oppure ritorni a casa, come nel suo caso, nel caso di Silvia, e la trovi, in realtà non vuota, la trovi piena di oggetti ribaltati e cominci a cercare, a riordinare quello che c'è, quello che e anche quello che non c'è più, soprattutto. Ecco, nella puntata di oggi parliamo di questo, parliamo di come ci si sente quando non trovi più gli oggetti a cui sei affezionato. Però, ecco, prima di andare avanti, Rudy, se è possibile, perché in questo pezzo di Alec Drastico, che anni erano? Primi 2000, no? Sì, no... Non, no, anni 90 era troppo presto. Forse era il 99. No, ecco, grazie Margherita, se dai un occhio. Comunque, in realtà il pezzo forte di questo monologo, che era tutto straordinario, a parte mi sveglio come tutti i pomeriggi, la magnificenza di questa frase, ma era dopo, erano gli insulti che lui lanciava al suo ladro. Cornuto, sappi che quello era il mio motorino. Tu puoi nasconderlo, puoi riverniciarlo, puoi raschiare il telaio, puoi venderlo e tenerlo, puoi farci ciò che vuoi, ma resta sempre il mio motorino. E a ricordartelo saranno le mie maledizioni, forever. Le maledizioni che si attaccheranno al telaio del mio motorino, su un manubrio sotto la sella, nel fanale posteriore e in quello anteriore, così che si spenga in una notte tutta buia, mentre incroci un grosso dire, guidato da un camionista ubriaco, morto di sonno e per di più inglese, che per questo tiene la sinistra. Era il mio motorino, va. Rollerball. Nei freni che ti si staccheranno all'improvviso, quando ti accorgerai che la macchina davanti a te è inchiodata, una volta compressa e schiacciato nel suo bagagliaio, ti sorgerà il tremendo dubbio che qualcuno ti abbia maledetto. Era il 1992 per l'esattezza, mi dicono di là dal vetro, quindi erano veramente tanti anni fa. 92-2013 sono 21 anni. Alec Drastico ha 21 anni. 349-238-6666. Serena mi scrive sul profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì. Voi siete qui, Radio 24. Mi hanno rubato, o forse ho perso. Sì, perché poi lì, ecco, quella è un'altra branca, però. Mi hanno rubato, o forse l'ho lasciata da qualche parte. Una vecchia maglietta da rugby, di quelle larghe, di cotone spesso. L'avevo presa a Brighton da ragazzina, nella mia prima vacanza studio da sola. Anch'io sono andato a Brighton da solo, cioè da solo, con dei compagni di liceo, prima vacanza studio. E mi ricordo che a Brighton c'era sta roba della caccia all'italiano. Non so se avete mai... Anche tu ti ricordi, ma non era solo a Brighton, era in giro in quell'epoca là. Quando partivi con i tuoi begli zainetti EF, arrivavi sul luogo, ti sfondavi di patatine fritte al McDonald's, che in Italia non c'era, e poi girava la voce che tipo il mercoledì sera c'era la caccia all'italiano. Ania mi scrive: sono tra le poche persone per cui il portafogli era più importante del contenuto. Non è stato né per i 50 euro che conteneva, né per i documenti o il bancomat, ma perché quel portafoglio in pelle me l'ero portato dalla mia terra, la Jugoslavia, fino a qui. 349-238-6666. Il racconto di Silvia, che parla di questo, in realtà ha uno spunto che fa un passo in là, cioè che non è solo la sensazione che provi quando ti rubano in casa, che è orribile, di impotenza, eccetera, eccetera, ma è, e lei lo dice molto bene, è quella quell'idea che quando vedi quello che ti hanno portato via e quello che ti è rimasto, e quando ti accorgi che speri che non ti abbiano portato via delle cose che sono meno preziose, diciamo, che hanno un valore sul mercato che è più basso di altre, che, perdonatemi, che è più alto invece di altre che in teoria valgono di meno, che però per te valgono di... Non so, allora, non si è capito niente di quello che dicevo, però sostanzialmente è una forma di riordino delle priorità, cioè cose che costano di più per te sono più importanti di cose che costano di meno ma valgono di più. Forse ce l'ho fatta. 349-238-6666. Marta, un orologio da parete che avevo in camera, lo avevo preso quando vivevo a Parigi ed era pure rotto. La storia di Silvia non parla di orologi, parla di piccole fotografie che i ladri non le hanno portato via. L'infanzia è finita quando ho capito che al mondo non esistevano solo il Natale, il profumo di biscotti e i cartoni animati, ma c'erano anche delle persone a cui non piaceva lavorare e si intrufolavano nelle case altrui per rubare beni preziosi. La mia infanzia è stata in un certo senso ovattata, in quanto sono cresciuta in una casa di campagna e quindi si giocava fuori, sempre all'aria aperta, e quindi mi sono sempre sentita diciamo protetta rispetto agli altri ragazzi magari della mia età, perché vivevo in un mondo praticamente fatato. Ai tempi dei CD e di Ligabue, ogni volta che acquistavo un CD della sua discografia mi sentivo parte dei grandi. Avevo finalmente anche io la mia prima passione, e a scuola, durante le lezioni, ogni momento era buono per scarabocchiare sui fogli le parole di quelle canzoni che sembravano scritte apposta per me. Vedevo la mia piccola collezione crescere e questo mi rendeva felice. La paura però che al mondo ci potesse essere qualcuno che di nascosto entrava in casa e mi potesse portare via le cose più preziose mi preoccupava. Per qualche strana idea, credevo sul serio che non solo per me quei CD erano un tesoro, ma avrebbero fatto gola al più avido dei ladri. Per questo ho iniziato a metterli in salvo. Ogni volta che lasciavamo la casa incustodita, impaurita dall'idea che mi potessero portare via i CD, io mi portavo dietro i miei piccoli tesori. Si andava fuori con la famiglia per un pomeriggio in montagna? Bene, in macchina caricavo il sacchetto con tutti i CD. Poi, fortunatamente, è passato il tempo dei CD e di Ligabue. Ma la paura di lasciare la casa sola o di essere svegliata durante il sonno dai ladri non mi ha mai lasciato del tutto. Non c'era nessun CD da mettere in salvo, se non qualche piccolo spicciolo guadagnato la sera prima al ristorante. Quando poi, una mattina d'estate, sono uscita e tornando ho dovuto fare i conti con una casa messa sotto sopra, ho capito. Ho capito che credevo che la paura più grande fosse quella di perdere il portatile con la tesi, ad esempio, o un paio di orecchini preziosi, e invece non era così. Appena mi sono resa conto di ciò che era accaduto, la paura più grande è stata quella di non trovare più un biglietto, una cornice con su una foto scattata in un momento particolare, o un braccialetto colorato, comprato al mare, che mi ricordava quanto ero stata felice in un momento. Sì, appena sono rientrata in casa, che quindi ho capito che c'erano stati ladri, e il primo pensiero che ho avuto è stato quello di, nel senso, ho avuto paura che mi fossero state rubate le cose che effettivamente per me contavano di più, e quindi cose che effettivamente nessuno si sarebbe mai sognato di rubare, ma che io sarei stata malissimo se avessi scoperto di non averle più ritrovate. Ovviamente a loro non interessava niente delle mie cianfrusaglie e io ero quasi sollevata per quello che era successo. È vero che qualcuno aveva infranto l'intimità della mia camera, della mia casa, mi aveva visto uscire e aveva pensato che sono terribilmente disordinata. Ma ero stata tutta una vita a pensare e immaginare come sarebbe stato questo momento, come avrei fatto a reagire o tornare a dormire. Eppure era successo e io non provavo niente, se non una terribile compassione per quelle persone che sono entrate in casa mia e per tutte le altre come loro che non hanno niente da perdere. Come. Una volta ho parlato con uno che diceva di essere un ladro. Fu una delle prime puntate di Vendotutto, era il 2010. Non ricordo di cosa si parlasse esattamente, però ricordo che al tempo, all'epoca prendevo un sacco di telefonate, quindi credo si parlasse di furti o di oggetti rubati. E un giorno chiamò questo tizio con la voce un po' roca, che mi disse di essere un ladro di professione. Diceva di essere stato un operaio o qualcosa del genere, e che negli ultimi anni gli era andato tutto storto. Non aveva più una lira ed era stato obbligato a rubare. Quando gli chiesi quale fosse stata l'ultima cosa che avesse rubato, lui mi rispose un computer portatile. Fece molto scalpore quella telefonata. Alcuni mi scrissero intimandomi di denunciarlo, altrimenti sarei stato connivente. Ricordo che non mi fece particolarmente rabbia. Ci parlai come ad una persona in difficoltà. Una persona in difficoltà che fa qualcosa che non deve fare, che sbaglia ma che mantiene comunque una sua umanità. E questo è sempre un po' quello che mi frega. Il fatto in fondo di perdonare sempre tutto a chiunque, perché penso che alla fine, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato, avrà avuto delle motivazioni anche orribili e drammatiche, ma ci deve essere stato qualcosa che lo ha condotto fino a fare quella sciocchezza o quell'errore. E l'ho pensato mentre in diretta ci stavo parlando, e anche dopo averlo sentito, al punto che l'ho anche quasi difeso di fronte alle persone che lo accusavano. Ecco, quel tizio e la mia misericordia mi sono tornati in mente in maniera molto nitida quando qualche mese fa dei ladri sono venuti a far visita al mio appartamento. Quando sono entrato in casa ed era tutto in disordine, tutto sventrato, come se avessero violentato l'appartamento. E c'erano tutte le mie cose, tutta la vita costruita fino a quel momento. E ricordo che mentre osservavo quello che c'era e scoprivo quello che non c'era più, pensavo che in fondo è proprio vero che siamo anche le cose che possediamo. Ed è anche vero che non siamo solo noi a possedere loro. È vero anche il contrario. Al punto che quando ci spogliamo di tutto, torniamo nudi come dei bambini e siamo più fragili, siamo più insicuri, come se avessimo perso tutto. E credo che la cosa più scioccante di una situazione come questa sia proprio l'effetto sorpresa. Tu sei lì, sereno, tranquillo, e poi di colpo non lo sei più. Il fatto che non dipenda da te ti lascia addosso questo orribile senso di impotenza. È lo stesso di cui parla Silvia. Come tutte le cose su cui non hai il controllo, solo che questa ti riguarda molto più da vicino. Cioè come se qualcuno avesse preso tutto quello che avevi, ne avesse fatto un grosso sacco e l'avesse lanciato giù dalla finestra. Basta, devi ripartire da zero. E ricominciare da zero è spiazzante, però sulla lunga distanza non è così male. Intanto perché hai più esperienza del mondo. E poi come tutti i colpi di scena è quasi rinfrescante. È un po' come quando ti dicono devi toccare il fondo per risalire, no? Oppure passare un giorno da cieco per imparare ad apprezzare il fatto che ci rivedi. Sì, più o meno, insomma. E l'aspetto più eclatante di cui parla Silvia, però, è un altro ancora. Ed è quello della sensazione di riordinare le priorità che un avvenimento come questo offre. Il fatto di ritrovarsi in casa con il mondo sottosopra e non preoccuparsi più delle cose che costano tanto, ma delle cose che valgono tanto. E scoprire che le nostre priorità non sono sempre quelle che sembrano. Che detto così è pure un bel concetto. Io però, dopo quella volta, quando ho scoperto nuove priorità, già che c'ero, tra queste, ho inserito anche una bella, robusta e solida porta blindata. The most impassioned song to a lonely soul is so easily outgrown. But don't forget the songs that made you smile and the songs that made you cry. When you lay in awe on the bedroom floor and said, oh, well, some other may matter. Passing the time and all of its sickening cries is making me sad again. But don't forget the songs that made you cry and the songs that saved your life. Yes, you're older now and you're a clever swine, but they were the only ones who ever stood by you. 3492386666. Giorgio mi scrive: mi hanno rubato un iPod in metropolitana. Era vecchio, ma conteneva canzoni che sono la colonna sonora della mia vita. Beh, questo è abbastanza tipico quando ti regalano, cioè quando ti rubano un oggetto che è più il contenuto che non l'oggetto in sé. Ti dispiace più per quello. Però in teoria di un iPod dovresti averci un backup, Giorgio, no? Cioè dovresti avere quelle canzoni lì, arrivano da qualche parte, non è che spuntano sull'iPod, a meno che te l'abbiano regalato. E poi ancora Silvia: 2 anni fa mi hanno rubato dalla scrivania dell'ufficio un portafoto di quelli a pinzetta con una decina di foto attaccate. Ah sì, quelli che hanno tipo, che hanno dei braccini con le pinzette. Erano foto di qualche viaggio, di mia mamma, di mio papà da giovane, del mio cane. Se mi stai ascoltando, maledetto, tieniti quel cavolo di portafoto, ma ridammi almeno le foto. Questo sembra Alex Drastico che insulta il proprio lato. Se mi stai ascoltando, 349-238-6666. E Silvia, anche lei, anche la nostra Silvia, che ci ha mandato la storia di oggi, che racconta di un altro tipo di furto che in qualche modo però ha riordinato le priorità della sua vita. Pronto, Silvia? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Mazza, c'è un tono però che mi sembra... Cioè, è successo qualcosa? Va tutto bene? No, è in tema con la puntata. Mi devo preoccupare. Senti, quanto tempo fa succedeva innanzitutto? Quando arrivò questo furto in casa? Quest'estate. Ah, proprio adesso quindi? Sì. Quindi questa paura che avevi da bambina è durata tanto? Perché adesso tu quanti anni hai più o meno, me lo ricordo? 26 anni adesso. 26, vabbè, sei ancora una ragazzina, però è durata un bel... Boh, non so, più di 10 anni questa paura. Sì, è da quando sono piccola che ho questa fobia barra paura. Non so neanche come definirla. Ma tra l'altro come ti è venuta? Perché io la prima volta che ho letto la tua storia ho detto: beh, le sono entrate in casa una volta da ragazzina e le è venuta questa paura. Invece no. Ma penso che dipenda dal fatto che abito in un posto, diciamo, fuori dalla civiltà. Nel senso che intorno a me ci sono soltanto ulivi, silenzio, alberi da frutto. Forse quello, non ho mai avuto nessun trauma. Che detto così sembra un posto meraviglioso, dov'è che è? Dove si trova? A Fermo, nelle Marche. A Fermo, che infatti se sentiva un pochettino questa accento, giusto? Adesso io lo faccio male, mi viene subito De Spoleto, però un pochettino sentiva l'accento marchigiano, diciamo centro Adriatico. Quindi da un giorno all'altro qualcuno ti ha parlato dei ladri e tu hai cominciato ad avere paura dei ladri, in sostanza. Esatto. Però questa cosa che ti portavi via il sacchettino con i CD di Ligabue, cioè mi immagino questa bimba che c'ha un sacchettino della spesa, cioè proprio una sportina, giusto? Tipo, no, tipo Calimero praticamente. Ah, giusto, col sacchettino sulle spalle e col bastone. E ti portavi via, che poi scusami, tutta la discografia di Ligabue all'epoca, sì, quanti erano? 5 CD, non di più? 6-7. Ah, già ci dava dentro il Liga. Sì. No, è proprio come te le immagini la scena. Sì. Cioè, che li caricavi sì, in macchina. Ok. Esatto. E invece dicevi che quando quando sono entrati in casa i ladri, avevano rubato, cioè, cosa hanno rubato di fatto? Perché abbiamo capito cosa non hanno rubato e diciamo ti ha reso felice, però di fatto cosa hanno portato via? Ma di fatto hanno trovato poco, nel senso che metti a mare il poco tempo che hanno avuto, però solite cose di valore, oro, quindi materiali preziosi, che ecco, a loro interessava quello. Perché sono entrati di giorno, tra l'altro, giusto? Di giorno, sì, io ero al mare e quindi... Hanno approfittato del costume della spugna. Ma scusami, no, tu abiti da sola o con i tuoi? No, non abito da sola, abito con i miei, però ecco, sono tornata all'ora di pranzo e... Finalmente è successo quello che aspettavo. Finalmente, che esatto, cioè è come se finalmente l'avesse esorcizzato questa roba, no? Esatto. Oh, là, è successo e alla fine non è stato meno traumatico di come lo immaginassi. No, veramente, è stato liberatorio. Che cosa fai nella vita, Silvia? Sono una stagista, quindi neolaureata. In che cosa, me lo ricordi? In economia bancaria. Ah, dove? Dove sei laureata? Sono laureata a Macerata. Ok. Quindi sempre qui nei dintorni. Immagino. E sto lavorando a Macerata sempre. E dai, dici cosa fai come stagista? C'è un accenno? No, effettivamente sono una stagista anomala perché non faccio caffè, non faccio... Ma guarda che gli stagisti in realtà ultimamente lavorano più di quelli che stanno negli uffici, esatto. Così a naso, non per guardarmi in giro qui. E cosa fai tu? Nel gergo sono addetta al back office. No, che meraviglia, back office. Quindi cosa fai? Sei tipo una trader? No, beh, mi occupo dei trasferimenti di titoli, stacchi cedolari, quindi ecco, la retroscena di attività molto più interessanti, però... Scusami, hai detto trasferimento titoli, posso immaginare, l'altra roba, stacchi cedolari? Sì, esatto, nella pratica dei titoli quando staccano delle cedole, effettivamente c'è necessario che qualcuno lo faccia materialmente, quindi... Cioè, ma staccare le cedole vuol dire che stacchi fisicamente del... No. No, cioè no, tipo, tutto... tipo così, andata, magari. Questa è andata. No, effettivamente non c'è niente, il materiale, tutto quanto è computer. No, ok, vabbè, non ho capito che cos'è Silvia, però facciamo, però mi piace, sì, facciamo finta che sia una roba, cioè facciamo finta, è sicuramente una cosa molto importante. Sì, no, è importantissimo. Ti tengono lì alla fine di sto stage oppure? Questo nessuno lo può sapere. Quando finisce? A maggio. Quindi è breve. Ah, ma quindi insomma tra meno di un mese. Sì, senti, sì. Silvia, io ti faccio in bocca al lupo per la tua vita, la tua professione e per tutto il resto. Senti, ma quando è che però vai via da casa dei genitori? E quando potrò permettermelo. Ottima risposta. Tutto andrò in un posto che non sia scampagnato. In campagna. Silvia, grazie ancora per la storia e per la chiacchiera. In bocca al lupo, ciao, grazie, ciao ciao. 349-238-6666, adesso la borsa e poi voi siete qui. Quasi non si vede Silvia nella foto che ci ha mandato, è praticamente nascosta per metà, o meglio il suo viso è nascosto per metà, dal muso gigante di un pastore tedesco bellissimo, che immagino sia il suo cane, che immagino anche non essere molto da guardia, visto quello che ci ha raccontato e quello di cui parla la sua storia. Il cane è bellissimo, lei è anche una bella ragazza, da quello che si vede ha gli occhiali tipo degli occhi dei Ray-Ban, credo, i capelli legati all'indietro, uno sciarpino, si vede il cielo riflesso nei suoi occhiali, è un cielo azzurro, ma soprattutto alle sue spalle, dietro di lei, quello che lei racconta, un paesaggio molto bucolico, dove abita, che immaginiamo sulle colline marchigiane, piante ed erba verde. Ladro, sostantivo maschile. Chi commette un furto o è dedito abitualmente al furto. Estensivo, chi si rende colpevole di plagio o di indebita attribuzione o approfitta della propria condizione o professione per illeciti o sproporzionati guadagni. Come aggettivo, abile nel rubare, uso al furto. Etimo, derivato di ladrone. Data, secolo XIII. Le cose che ci rubano spesso sono hanno un valore un valore, diciamo, di denaro, costano tanto e magari ce ne frega di meno di quando ci rubano cose che costano poco ma per noi sono importanti. Ottavio mi scrive al 349-238-6666. I ladri in casa si sono portati via la maglia di Del Piero, l'avevo comprato a un'asta di beneficenza. Ecco, esattamente come questo. Beh, a parte che è probabile che a un'asta di beneficenza tu anche l'abbia pagata tanto, una maglia che però insomma vale, beh, oddio, se è originale, no, se è originale costa un sacco di soldi. Quanto costa? 100 euro una maglia originale di una squadra? 80-90 euro. Pietro, i ladri d'auto mi hanno portato via, oltre all'autoradio, che è molto anni 80, scrive lui, il fatto che ti portino via l'autoradio, anche, rubano ancora le autoradio adesso, non sono inglobate nelle macchine in modo che non le puoi togliere. Vabbè. Mi hanno portato via, oltre all'autoradio, anche un CD dei Simply Reds. Simply Red. Che non ascoltavo da anni, ma mi dava sicurezza sapere di averli nel cassettino del cruscotto. Simply Red, tu pensi, te lo ricordi? Cosa cantavano i Simply Red? It's Only Love, cantavano. It's Only Love. O erano i Simple Minds? Faccio confusione. Aspetta, guarda, li cerco. È sempre fatto confusione tra i Simply Red e i Simple Minds. Aspetta, ho trovato. Abbassa un attimo la base. Quasi sono i Simply Red, eh? Ma che bel ciuffo. Tra l'altro mi pare che il cantante dei Simply Red abiti in Italia, è vero? Abita, sì, vicino a Milano. Io mi ricordo tipo a Gallarate, non so perché. Questa si chiama Holding Back the Years. Senti che questa sarà tipo Alex Drastic, sarà forse prima. 85. Direi anche basta con Simply Red, per oggi. 349-238-6666. Oggi si parlava di ladri e noi, che abbiamo, come sapete, una fantasia devastante, abbiamo pensato al ladro più famoso della storia. E ovviamente la prima roba che ti viene in mente chi è? È Arsène Lupin. Arsène Lupin, che per tutti è semplicemente un cartone animato, in realtà è una storia scritta da questo autore francese che si chiama Maurice Leblanc. Questa storia, però, la storia di Arsène Lupin, è stata ispirata da un uomo, da un tizio che è realmente esistito, che è morto nel 1954, aveva 75 anni, e si chiamava Alexandre Marius Jacob, o Jacob, non so perché era francese. Era nato a Marsiglia ed era in realtà, più che un ladro vero e proprio, era un anarchico. Lui era una sorta di Robin Hood, era uno che rubava in onore, rubava per i poveri, lui più o meno raccontava. È stato chiaramente incarcerato, ha avuto un ergastolo, poi è stato graziato. È una storia assurda la sua, perché si imbarcò a 11 anni come mozzo su varie navi, una delle quali al largo dell'Australia si scoprì essere una nave pirata e non una baleniera, ad esempio. Tornò a casa malato e subito entrò nel movimento anarchico, ed era diventato famoso perché si travestiva per rubare, si travestiva soprattutto da prete, e aveva una banda che si chiamava, eccolo, i Lavoratori della Notte. Tra il 1900 e il 1903 realizzarono oltre 150 quelli che loro definivano recuperi ai danni di finanzieri, prelati e magistrati. C'era una storia divertente che avevo trovato, che lui, tra le varie invenzioni che faceva per mettere a segno questi colpi, ecco, usava come palo un rospo, perché i rospi, come si dice, gracidano, ma smettono di gracidare quando arriva qualcuno. Quindi lui usava un rospo che fino a quando gracidava era tranquillo, quando smetteva, quando sentiva che era silenzio, era perché qualcuno si stava avvicinando. Lui ha scritto varie cose, ha scritto anche dei testi contro la prigione, contro la prigionia, che sono stati pubblicati. Ma la cosa interessante di questo personaggio è come muore. Lui si toglie la vita a 75 anni con un'iniezione di morfina durante una festa che lui ha organizzato a casa. Si suicida con un'iniezione di morfina, lasciando questa lettera. Dice: ho vissuto un'esperienza piena di avventure e sventure. Mi considero soddisfatto del mio destino. Dunque voglio andarmene senza disperazione, con il sorriso sulle labbra e la pace nel cuore. Ho vissuto, adesso posso morire. PS, vi lascio qui 2 litri di vino rosato. Brindate alla vostra salute. Insomma, questo tizio che si chiama Marius Jacob, Alexander Marius Jacob, è stato quello che ha ispirato Arsenio Lupin, come vi dicevo. E ha lasciato, tra i vari scritti, una lettera che ho recuperato sulla rete, che è una lettera che lui scrive a un procuratore per recuperare una cifra abbastanza irrisoria, che erano 40 franchi, ma per la quale lui ne fa una questione di giustizia. Luglio 1954. Signor procuratore, il 18 gennaio 1954 avevo spedito al vostro subordinato, il cancelliere capo del Tribunale Civile, una richiesta di estratto del mio casellario giudiziario, allegando un vaglia di 180 franchi, oltre ad un francobollo di 15 franchi per la francatura della busta. E il 22 di questo mese ho ricevuto quanto richiesto. Ora, quel documento indica da sé, in carattere a stampa, il costo di 140 franchi, non 180. Orbene, penso che per essere giusti, il vostro subordinato avrebbe dovuto restituirmi quanto in più che con il presente reclamo ammonta la cifra di 70 franchi, cioè 40 più 15 e 15 di francobollo. Vede, fin da giovanissimo mi è stato inoculato il virus della giustizia e ciò mi ha causato parecchie noie. Ancora oggi, al declino della mia vita, la benché minima ingiustizia mi infastidisce e risveglia in me il Don Chisciotte delle mie giovani primavere. Mentre in voi, signor procuratore, che siete, se posso dirlo, del mestiere, le reazioni devono essere ben diverse. Voi dovete ritenere ridicolo un reclamo per una somma così modesta. Dovete pensare e credere che io sono un rompiscatole, unicamente preoccupato di attaccar briga con i servitori dello Stato. Errore. Io cerco di capire. Frugo ed esumo i motivi che hanno potuto determinare il fatto che un mercenario del principe, d'altronde ben provvisto di onorari superiori a quelli concessi ai lampisti, sgraffigni i miei 55 franchi. Nella vostra corporazione, signor procuratore, ci sono gli aguzzini, i duri, quelli che interpretano più la lettera che lo spirito, quelli nei quali il riso non ha mai tracciato una ruga sul viso. I giudici della Santa Inquisizione, neri o rossi, erano e sono ancora di questa tempra. Ci sono poi quelli più colti, dal carattere meno rigido, più disposti ad apprezzare umanamente, a comprendere, quindi ad eseguire piuttosto che ad infierire. Mi piacerebbe potervi classificare in quest'ultimo tipo, e quindi vi prego, signor procuratore, di volere fare buona accoglienza della mia richiesta, facendomi restituire la somma che mi è dovuta. e vi prego di gradire i miei ossequi. Firmato Marius Alexander Jacob, svaligiatore in pensione. Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupe. Era qui un momento fa, chissà dov'è, dappertutto hanno visto Lupe. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupe. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho, a Lupe il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, Lupe. Quanti cani poliziotti ha dietro sé, ma sarà un osso duro, Lupe. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per darli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa, neanche un po', a me però però. Saprei dire di no, a Lupe il mio cuore darò. 349-238-6666. Vi ricordo che se non avete ascoltato questa puntata, o se ne avete ascoltato solo in parte, o se volete riascoltare tutte le puntate di questo programma, andate sul sito di Radio 24 nella sezione podcast e ve le ritrovate tutte. Giordano mi scrive: dal garage di casa mia, a proposito di ladri e di furti, insieme all'auto assicurata e quindi rimborsata, i ladri hanno preso un vecchio Ciao, non più funzionante, ma per me un pezzo di infanzia. Ci feci il giro della Corsica. E guarda, farsi il giro della Corsica con un Ciao non è da poco. Fosse stato un sì sella lunga, avrei potuto capire. Qualcuno mi scrive anche che si ricorda di quel ladro che era intervenuto avendo tutto e aveva fatto abbastanza effetto anche loro. Non che io l'avessi difeso, mi devo correggere, non difesi ovviamente il ladro, però figuriamoci. Però parlando con quel tizio, poi magari era semplicemente una grande bufala, però mi era parso di scorgere un pezzo di umanità e faccio sempre, io ho sempre quel problema lì, che alla fine mi sembra sempre che ci sia qualcosa di umano in tutto quello che si fa. Sergio mi scrive: da bambino mi hanno rubato un pupazzetto di Snoopy che avevo dimenticato sul banco della chiesa. Tornando a cercarlo, mia mamma mi rassicurava dicendo che in chiesa le persone non rubano. Quando non lo trovai più, odiai lei e tutte le persone della chiesa. Grazie a Tiziano Bonini, a Fabio Cantadori, a Margherita Ina e grazie soprattutto a Silvia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, mi chiamo Carlo e abito a Busto Arsizio. La storia di lunedì è la mia e parla di un'emozionante avventura avvenuta l'estate scorsa al mare. Questa è la mia storia e io sono qui.